Pietro poteva intuire a fatica l'onerosità del compito che avrebbe lasciato in eredità ai suoi successori. Il Papa deve tenere presente, come Vescovo di Roma, la situazione locale, come Capo dello Stato della Santa Sede, i problemi diplomatici e di rapporto tra gli Stati, e come Santo Padre quelli della Chiesa Universale. Deve scrivere allocuzioni, encicliche e prediche, tenere udienze private e collettive. Poi ci sono le congregazioni, i tribunali papali, commissioni, consigli e poi gli uffici competenti per la dottrina, la liturgia, la disciplina, l'educazione. Centinaia di case madri degli ordini, più di 100 collegi hanno sede a Roma e così via. Certo il Papa ha nel collegio cardinalizio un valido staff di consulenti, con corifei di diverse culture, con approccio culturale diverso e con un bagaglio di esperienze politiche diversificato, ma dal segretariato di Stato arrivano tutti i giorni interi bauli di documenti di cui ogni foglio rappresenta un problema. Vescovi di tutto il mondo lo assalgono con richieste più o meno impossibili. Inoltre non può trascurare la preghiera e la devozione e deve dare un contributo spirituale originale. La Chiesa universale si ingrandisce sempre più. Il papato può rimanere quello di oggi? Le modalità concrete possono naturalmente variare. La Chiesa dell'VIII secolo è diversa da quella del XV, che a sua volta è diversa da quella del XX secolo. Molto di quello che lei ha enumerato può naturalmente subire dei cambiamenti. Partiamo dallo Stato del Vaticano. È solo una costruzione che serve d'ausilio alla Chiesa. Il Papa di per sé non ha alcun bisogno di uno Stato, ma ha bisogno di libertà, di una garanzia di indipendenza. Non può essere al servizio di un governo. Il primato ha potuto svilupparsi a Roma perché l'istituzione imperiale con Costantino si era spostata a Bisanzio, concedendo alla Chiesa di Roma quella libertà di cui aveva bisogno. Spiegare l'efficacia del primato con il suo coincidere con la sede del governo della Chiesa significa, a mio parere, confondere la causa con le conseguenze. Nel corso dei primi 3 secoli, essere cristiani a Roma significava rischiare il martirio. Questo ha conferito al Papa un carattere martirologico. Solo con lo spostamento a Oriente della sede dell'impero è sorta in Italia, grazie al vuoto di potere creatosi, quella forma di indipendenza religiosa che ha consentito al Papa di sottrarsi alla subordinazione diretta al potere politico. Più tardi è nato lo Stato Pontificio, che certo ha comportato molte insane commistioni e infine è crollato nel 1870, grazie a Dio, dobbiamo dire oggi. Al suo posto è subentrata la costruzione di un mini-stato che ha solamente la funzione di garantire al Papa la libertà del suo servizio. Se i meccanismi di funzionamento di questo apparato possono essere ulteriormente semplificati, è una questione che può essere affrontata. Così molti altri elementi di cui lei ha accennato possono essere messi in discussione. Non tutte le case madri devono necessariamente aver sede a Roma. Il numero delle encicliche scritte dal Papa, la frequenza dei suoi interventi, sono tutte questioni che variano a seconda delle circostanze e del temperamento stesso dei diversi pontefici. Possiamo comunque chiederci se, nonostante tutto questo, il compito non rimanga eccessivamente oneroso. La massa dei contatti impostigli dalle responsabilità nei confronti della Chiesa universale, le decisioni da prendere, la necessità di non trascurare lo stato contemplativo, di radicare la propria missione nella preghiera, tutto questo rimane un grosso dilemma. Ma non ci sono oggi anche correnti di pensiero del tutto nuove? Si può ragionare sul contributo che forme di decentramento potrebbero dare all'alleggerimento delle funzioni papali. Il Papa stesso, nella sua enciclica ecumenica, ha chiesto che venissero avanzati suggerimenti e proposte su una possibile riforma dell'istituzione papale. E già si sono levate diverse voci. L'arcivescovo emerito di San Francisco, Quinn, ha sostenuto con vigore la necessità del decentramento. Si può sicuramente fare molto in questo ambito. Considero però molto importanti le riunioni ad Limina a Roma delle conferenze episcopali che implicano contatti e incontri e sono necessarie al rafforzamento dell'unità interna della Chiesa. Le lettere non possono compensare l'incontro personale. Parlarsi, ascoltarsi, guardarsi in faccia, discutere insieme sono elementi insostituibili. Da questo punto di vista direi che queste forme di incontro personale, che questo Papa ha reso più concrete e meno rituali, continueranno ad avere una loro importanza, proprio perché l'unità, la comprensione reciproca, la capacità di affrontare unitariamente problemi e sfide culturali necessitano di una forza elementare che cresce solo nell'incontro personale. Oggi, anche considerazioni eminentemente razionali ci convincono della necessità di un punto di riferimento unitario qual è il Papa. Nel frattempo anche i protestanti si dichiarano a favore di un portavoce della cristianità, di un simbolo dell'unità dei cristiani, e se il papato venisse riformulato in questa direzione potremmo dichiararci d'accordo, dicono alcuni. In ogni caso si tratta di un compito oneroso, come l'ha definito lei, quasi al di là delle forze umane. D'altro canto è anche un compito imprescindibile e che con l'aiuto del Signore può anche essere portato a termine. Decentramento significa che anche nella Chiesa Cattolica saranno creati dei patriarcati? Sono sempre più in dubbio che questa possa essere la forma organizzativa adeguata a raggruppare grosse unità continentali. Prima pensavo anch'io che questa potesse essere la soluzione. Le radici dei patriarcati affondano nelle loro origini apostoliche. Il Concilio Vaticano II ha invece individuato nelle conferenze episcopali le forme organizzative di unità sovraregionali, cui si sono poi aggiunte le unità continentali. America Latina, Africa e Asia si sono nel frattempo dotate di sedi di discussione comunitaria, diversamente strutturate, che coinvolgono l'episcopato dell'intero continente. Forse ci sono quindi possibilità più adeguate alla situazione attuale. Devono comunque esistere strutture in cui inquadrare la collaborazione sovraregionale che conservino sicuramente un certo grado di informalità e che non degenerino in senso burocratico e non aprano varchi al prepotere dei funzionari. Ma sono necessari indubbiamente forum sovraregionali che si facciano anche carico di funzioni fino ad ora svolte da Roma. È pensabile che il Papa sia un giorno riconosciuto anche dalla Chiesa protestante, ortodossa, anglicana? È in corso un dialogo teologico formale con la Chiesa ortodossa, che però fino a questo momento non ha osato toccare questo nervo sensibile. Da un lato il primato del Papa non è del tutto estraneo alla tradizione ortodossa, visto che Roma è stata sempre riconosciuta come prima sede. D'altro canto, il primato contraddice però la struttura ortodossa delle autocefalie, unità ecclesiastiche autonome, tanto che molte sensibilità si opporrebbero sulla base di ragioni storiche a un riconoscimento e lo renderebbero più difficoltoso. Ci sono altri ambiti in cui il dialogo ecumenico è meno complicato. Non si deve far conto su rapidi successi, bisogna lavorare con pazienza e tenacia per fare passi in avanti. Gli anglicani, rispondendo all'enciclica ecumenica del Papa, hanno sviluppato una visione del papato nel cui quadro hanno sottolineato le condizioni che renderebbero dal loro punto di vista accettabile questa istituzione. È un passo in direzione di Roma. È poi in corso il dialogo sull'authority in the church, che ha sullo sfondo anche questa questione. Anche in questo ambito vanno registrati degli avvicinamenti, anche se le origini storiche dell'anglicanesimo costituiscono un ostacolo. Vedremo. Il protestantesimo è una realtà estremamente composita. Da un lato ci sono le chiese protestanti tradizionali, riformatore luterana, metodista, presbiteriana e così via, in crisi in gran parte del mondo. Le chiese storiche classiche hanno infatti perso peso a favore delle evangelicals, dei pentecostali, dei movimenti fondamentalisti in cui si è verificata una nuova esplosione di vitalità religiosa che ha scompaginato tutti i giochi. Tradizionalmente evangelicals e fondamentalisti sono sempre stati acerrimi avversari del papato. Ora assistiamo a un'evoluzione sorprendente, perché si rendono conto che il Papa è quella roccia che rivendica davanti a tutto il mondo quell'identità cristiana forte, aliena dalle moderne tendenze volte ad annacquarla. Riconoscono quindi nel Papa, da un certo punto di vista, un alleato, anche se non vengono meno le loro antiche riserve. Quindi il quadro è in movimento. Ciò che speriamo dobbiamo attenderlo con fiducia, ma anche con grande pazienza.